Perfetto, si comincia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ho sputato con la P. Cazzo di microfono. No, perché quando uno è Conte da subito. Oggi è il 31, quindi è quel giorno lì che poi la notte le streghe fanno delle storie che non ho mai capito perché si festeggia la notte delle streghe. Non lo so, più avanti ricercherò, visto che io ogni tanto faccio delle ricerche molto profonde e altamente filosofiche, dopo vi darò anche, vi leggerò delle cose che ho trovato, perché io faccio delle ricerche molto profonde e trovo delle robe là in fondo. Questo è quello che mi piace. Io sono Gigi D'Agostino, questa è M2O, la radio, no? Siete sintonizzati qua. Voi, non lo so, se volete presentarvi potete scrivermi gigi@gigidagostino.com e possiamo quasi, sì, possiamo cominciare. Io andrei con un po' di musica seria. Buona danza. Come fai a non muoverti quando suona questa roba? Quando senti queste frequenze? Questi accenti? Questi sbattiti lenti? Pronunciare il nome della località. Vorrei andare a casa perché ho una fame porca e c'ho voglia di mangiare. Ripetere, prego. C'ho fame! Scegliere un numero riga o pronunciare avanti. Avanti, c'ho fame. Scegliere un numero riga. Che cazzo è il numero riga? Numero 6, accettato. Ma quando mai? Ho detto che cazzo è il numero riga. Si desidera immettere una via? Se cosa vuoi che immetto? Se posso immettere altro... Dimmi quando e dove. Ripetere, prego. Dimmi quando che te lo immetto io. Ripetere di nuovo. Te lo metto. Annullamento. Devo andare. Utilizza la destinazione. Sì, ho capito. Devo andare in studio. Guida perché destinazione. Devo... Aspetta, devo andare in studio. Devo fare un pezzo. Destinazioni speciali. Devo fare un pezzo. Devo andare in studio. Mia... Sì, ciao, drogata. Mm.

questi accenti. Questi sbattiti lenti. Si accende l'amore, è una pazzia temporanea. L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. Perché questo è, l'amore è questo. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi a ogni istante della giornata, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo. Ti si muovono le cose proprio, no? Adesso io non posso dire esattamente cosa, però si muove un po' tutto, no? A voi non vi si sta muovendo niente? Non vi succede qualcosa dentro e anche leggermente fuori? Devo andare in studio. Funzione pausa attivata. Ma quale pausa? Devo andare adesso. Cioè, adesso c'ho l'idea. Dopo, capito? Mi passa. Mi piacerebbe vedervi mentre, cioè adesso, no? Mi piacerebbe vedere ognuno di voi, no? Per vedere i gesti che fa, le facce, i movimenti, per scoprire cosa si sta muovendo. Thank you. bellezza. Che bellezza qui ogni sabato, dalle 2 alle 4, M2O, Gigi D'Agostino, quello che mi piace. Cioè non perché mi piace Gigi, perché cioè quello che mi piace è quello che sentite, è quello che scelgo, che seleziono, quello che il mio istinto mi dice di suonare. Il sabato qui insieme a voi. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuto in onda. Cazzo ridi? Tra 200 metri alla fine della strada. Se finisce la strada, come cazzo faccio a svoltare? Forse ha creato l'uomo, ma l'uomo, l'uomo è il figlio di Dio. Ha creato Dio solo per inventare se stesso. L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo. Bellezza. Sabato qui insieme a voi. D'Agostino dalle 2 alle 4 senza impegno. Prepararsi a svoltare a sinistra. Minchia, prepararsi, no? Come mi devo mettere? Mi devo togliere il cappello. Danza, chi è tenuto, capito, chi è tenuto, evoluzione, capito? Chi è? La danza, chi è evoluto, capito? Chi è? Lenta evoluzione. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione tu c'è senza impegno. Tu arrivederci. Dov'hai? Tu è una composizione tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica senza impegnarci. Tu dallo parti. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione problematica. Tu c'è senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu è una composizione tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica. Tu por favor avance hacia la ruta marcada. Si è fatta male. Pronunciar destino. Memorizar destino. Destino. Ma che cazzo? Guiado al destino. Destinos sfiga. Especiales. Ah, beh, certo. Mapa. O todas las funciones. Mapa o mappina. Ma porca. Cancelar. Cosa? In the beginning. Pronunciar código postal. Que no lo sabes. Pronunciar localidad. La localidad de Roncadelles. Calle. ¿Qué? Número. El número uno. No, no, hombre. Zona, la música. País. El país tropical. Iniciar guiado al destino. El destino de Gigi D'Agostino. Oye. Pina, ¿a quién es? Beccatevi sto pezzo con Gigi D'Agostino, si balla un casino. Zanzan. Gigi D'Agostino. Quello andava a mignotte. Quello che mi piace.

Bellezza. D'Agostino. Il sabato qui insieme a voi. We'll be right back.

a caval donato lo si prende, non posso leggerla tutta. A volte ritrombano. Sabato pomeriggio, se vuoi fare incontri buoni, vieni al Teatro dei Suoni. Dalle 2 alle 4. Mi piace se ti piaccio. When I'm about to, the beans don't point, the number dip in the rafters. the rap boom. Boom. When all the people do, the beans don't punch, you know the boom, the rap boom. The beans don't punch, the number they from the rap. When nobody bought you, see the beans don't punch, the number they from the rap. When nobody bought you, see the beans don't punch, the number they from the rap. When nobody bought you, see the beans don't punch, the number they from the rap. Cioè basta. Quello che mi piace, il teatro elettronico. Must come along. sabato qui insieme a voi. Sempre qui su quello che mi piace, M2O, in un momento molto particolare, molto serio, molto struggente del programma. Ci sono altri titoli di film che vorrei condividere con voi. Anal dai capelli rossi. Non c'è niente da ridere. (Susurra) cazzo da ridere. Anni 90. C'è anche il commissario Rett. Vabbè, culi infranti, duri a venire, erezione a catena, figa da Alcatraz, è bellissimo. C'è figa da Alcatraz, ha vinto tutto. Famosissimo gioco dei bimbi, giro giro trombo. Chi non ricorda gli Aristocazzi? Sei volgare, sei triste. Questo è splendido. I soliti colpetti. Il re Leccone. Questo titolo è rimasto invariato perché, secondo me, cioè il titolo che vi dirò adesso, è rimasto invariato perché già di suo, diciamo che presenta un forte scenario. Il richiamo della foresta. Ma no, così per dire. Il silenzio degli impotenti, vabbè. Semplicemente essere innamorati. E chiunque può facilmente convincersi di esserlo. L'amore, invece, è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato. Non sembra una cosa molto eccitante, vero? Ma lo è. We'll be right back. Gigi D'Agostino. Strane connessioni. Strane connessioni sul palcoscenico del teatro elettronico. Suoni molto cupi per riflessioni solari. Between love and hate, and what we see, and what we see. vuole essere conosciuta. Il teatro elettronico. In data odierna, senza nulla a pretendere, Gigi D'Agostino.